Tu mi conosci? Sì. E invece no. Va bene. Hai visto la mia foto sul giornale? Sì. E invece no. Neanche lo compro il giornale. Infatti, non la conosco. È tutta colpa mia. Le chiedo scusa. Avvira pozza, avvira vai. Avvira pozzo con il mondo che mi sputa addosso. Il suo senso insulso, il suo stronzo falso savoir faire. Continua a chiedermi perché tutto mi martella sulle balle come un loop che ritorna sempre uguale dall'inizio. Con le rime lo scolpisco, tiro dopo uguale a prima, non capisco. Così la vita fa strani scherzi e come mi ritrovo io ciclicamente a pezzi. Già, per quanto io mi sbatta e mi sforzi non gli apprezzi, ma mi batto a testa bassa e non mi spezzi. Rafforza il mio corpo, ogni colpo che mi dai lascia segni sulla pelle, ma la pelle non l'avrai. Avvira vozzo, avvira vai. Su mondo fazzi caga. Dovessi fare il conto delle lacrime che ho perso, ne sarei sommerso negli abissi più neri disperso. Dall'alto dei cieli giù come gocce infuriate alla tempesta più grande d'ogni tempo. Un tempo che fugge non ritorna. Il tempo che fu sarà il tempo dove lascio la mia orma. Su sentiero impervio che calco con passi sempre più pesanti sino a che lo spacco. Come andassi contromano, sono sempre controverso, sociopatico, contorto e complesso. Avvira vozzo a cambiare me con quello che detesto, ad accettare un compromesso scelto solo per fare soldi, io in penna scemo. Pensare che lo conoscevo prima di te, lo sporco gioco che fa il mondo con un losco imbroglio sullo sfondo. Avvira vozzo, avvira vai. Sporco mondo, non mi cambierai mai. Avvira vai, avvira vozzo. Sto ancora in piedi pure gioco di sud. Avvira vozzo, avvira vai. Sporco mondo, non mi cambierai mai. Avvira vai, avvira vozzo. Sto ancora in piedi pure gioco di sud. Non so se peggio il lavoro che adesso non ho, potrei confrontarlo col lavoro che non avrò. Quel che so è che l'aria è pesante, sotto la porta passa merda, buttaci i guanti. Mi han detto di vivere per quello che non sono, mi han detto di scrivere per quello che non suono. Di essere qualcuno, più certo, più sicuro, vi ho mandato a fare in culo già nel 2001. Io sono 100.000, uno, nessuno, quanto basta massacrarvi tutti in fila, lo giuro. La notte è diverso, col mondo è dissolvenza, di giorno poi mi ingoio tutto il senso di impotenza. Dovrei sapere, vorrei essere normale, potrei, ma questa libertà è condizionale. Di restare a guardare, farsi condizionare, pensare il male, solo sotto i piedi che scompare. Passare notti solo in posizione fetale, dire di sé alla morte parte la marcia nuziale. Eclissi totale, quando ero liceale, le alternative erano due, spada o pugnale. La gente mille colpi con la stessa faccia, le vie come un cd con la stessa traccia. Suite infinita ancora senza uscita, la stessa colonna sonora della mia vita. Avvira vozzo, avvira vai. Sporco mondo, non mi cambierai mai. Avvira vai, avvira vozzo. Sto ancora in piedi pure gioco di sotto. Avvira vozzo, avvira vai. Sporco mondo, non mi cambierai mai. Avvira vai, avvira vozzo. Sto ancora in piedi pure gioco di sotto. Avvira vozzo, avvira vai. Sporco mondo, non mi cambierai mai. Avvira vai, avvira vozzo. Sto ancora in piedi pure gioco di sotto. Avvira vozzo, avvira vai. Sporco mondo, non mi cambierai mai. Avvira vai, avvira vozzo. Sto ancora in piedi pure gioco di sotto.